Strategie fatali al Teatro India qui a Roma dal 25 gennaio, cioè da domani, fino al 5 di febbraio. Ne parliamo con Paolo Mazzarelli. Ben ritrovato Paolo. Grazie, ciao, buongiorno a voi. Allora Paolo, raccontaci un po' di questo nuovo lavoro. Ma guarda, è il quinto spettacolo che io ho scritto e che dirigo, insomma, insieme a Lino Musella, quindi la compagnia era Musella Mazzarelli, è il suo quinto tentativo. Noi siamo partiti facendo le cose in due, più o meno da soli, cantandocela e suonandocela, e siamo arrivati adesso a esserci inventati una mezza follia, perché sono tre storie intrecciate fra loro, tutti e tre si svolgono in un teatro, abitate da 21 personaggi interpretati da 7 attori, quindi diciamo intanto un colossal di questi tempi. Le tre storie, come ho detto, si svolgono, hanno in comune il luogo in cui si svolgono, che sì, è un teatro abbandonato, e il teatro non è solo il luogo in cui queste storie si svolgono, ma è anche in qualche modo l'argomento e il tema dello spettacolo, il teatro come luogo di lavoro e anche come tramite per affrontare certi argomenti che soltanto il teatro permette di affrontare. Le tre storie partono tutte e tre da un punto di partenza concreto, molto semplice. Nella prima, due investigatori cercano un ragazzo di 15 anni che è scomparso in un teatro, che forse si è trasformato in un fantasma. Nella seconda, una compagnia sta mettendo in prova una ripresa dell'Otello, nella quale a un certo punto compare un filmato pornografico che scompiglia le carte, e nella terza una compagnia edilizia vuole occupare quello stesso teatro per costruirci un grande ospedale. Ma in tutti e tre i casi le tre storie intanto sconfinano una nell'altra e poi sconfinano verso un metafisico di qualche sorta abitato da fantasmi e presenze strane. Per questo anche il teatro è importante, non è solo luogo, ma è quello che permette di mettere in scena i fantasmi. Lo spettro è soltanto il teatro. Paolo, la spinta iniziale qual è stata? Ma è uno spettacolo che è nato da molte suggestioni, non soltanto da una. Noi avevamo già in testa la storia dei due investigatori. Diciamo che forse la spinta più forte è stata quella, diciamo, c'è stata una suggestione nata dalla lettura di questo saggio filosofico di Baudrillard, si chiama appunto Le strategie fatali, nel quale vengono affrontati alcuni argomenti che sono il sacro, che sono il mistero, che sono il segreto, che sono il porno, che sono il terrore. Tutti questi argomenti hanno iniziato a proliferare nella nostra testa in maniera inizialmente molto confusa, e poi attraverso un gioco teatrale di sconfinamento da una storia nell'altra abbiamo provato a metterli in scena in un modo che, come poi sempre nei nostri lavori, in realtà è nutrito in buona parte da un modo che è vicino alla commedia, perché poi noi sempre quello facciamo, cioè una commedia per provare a parlare di cose serie e anche grandi, ma sempre commedia. Senti, la vicenda del teatro abbandonato rievoca le esperienze in tutto il paese sia di cinema che di teatri abbandonati e recuperati dalla comunità, che hanno posto seriamente una questione culturale in questo paese. Sì, diciamo la questione culturale c'è, purtroppo non è soltanto in questo paese, ma in questo momento è, diciamo, globale. È chiaro che il teatro è per definizione qualcosa che contrasta la logica del profitto, essendo un'attività che fondamentalmente non ha un profitto tale da poter competere con altre attività, certo, che invece creano profitto. Il teatro si basa fondamentalmente sugli incassi e per il resto vive di finanziamenti, quindi è chiaro che in una logica dominante come quella l'unica del profitto, il teatro è destinato a essere distrutto per costruirci un supermercato, un cinema, un ospedale, qualunque cosa crei denaro. Nel nostro caso c'è un elettricista, un tecnico elettricista che si è barricato dentro questo teatro che deve essere distrutto, ci vive dentro insieme a una zingara e a un ragazzino di 15 anni, e quando questa grande compagnia che si chiama Compagnia delle Opere Pie, cui nome rievoca, insomma, non difficilmente quello di Compagnia delle Opere, che è il braccio economico di Comunione e Liberazione, quando questi tre vanno in teatro per occuparlo e per distruggerlo, lui, diciamo, chiede come unica condizione, prima che il teatro venga distrutto, quello di far assistere i personaggi di questa compagnia alla sua ultima performance, e la sua ultima performance andrà poi effettivamente in scena con tutto ciò che ne segue all'interno dello spettacolo. Senti, una tenitura importante, 2 settimane in scena. Eh sì, fatti due settimane in un teatro da 350 posti che non ha purtroppo una grande facilità a essere riempito. Insomma, ho visto, ho constatato con i miei stessi occhi che il teatro si riempie molto difficilmente anche per tenuture brevi. Quindi sì, una grossa scommessa del Teatro di Roma su questo spettacolo che speriamo col passaparola e col fatto che lo spettacolo piaccia sempre di più si vada a riempire il più possibile, insomma. Senti, poi lo porterete in giro per l'Italia? In realtà lo abbiamo portato relativamente in giro per l'Italia nella passata stagione. Okay. Quest'anno facciamo soltanto le due settimane a Roma, una data a Forlì e una a Cuneo, e poi riprendiamo di nuovo l'anno prossimo con Milano e qualcos'altro. Ma diciamo il grosso del capitolo di quest'anno è incentrato proprio su Roma e a quello puntiamo. Senti, i riscontri finora? Ma riscontri ottimi, insomma, dal punto di vista del pubblico. Noi come compagnia sono 2 anni che abbiamo più o meno il tutto esaurito sempre. Questo ci riempie di una enorme gioia. Non potrà essere così a India, già lo sappiamo, ma speriamo che si vada verso qualcosa che assomiglia a un tutto esaurito. Lo spettacolo con questo testo si è vinto il premio del critico, il premio Istria Drammaturgia 2016, quindi sia a livello di pubblico che di critica che di riconoscimenti, diciamo, non possiamo che essere felici. Adesso speriamo che il pubblico romano ci dia una gioia di condividere con noi questo lavoro. Senti, un bilancio della compagnia, visto insomma questo nuovo esperimento con più attori in scena rispetto ai vostri inizi? Ma sai, noi abbiamo scelto consapevolmente, lucidamente, di andare verso un folle suicidio, nel senso che chiunque ci diceva: ma che cacchio fate le cose da soli, fate i monologhi, fate le cose a due, fate le cose a tre. In questo momento uno spettacolo con 7 attori e 2 tecnici che gira in un tir, se non sei un grandissimo nome di traino, è un suicidio dal punto di vista programmatico. Quindi il bilancio è di tanta tanta tanta fatica, però siamo contenti di osare e di usare il fatto di avere un teatro stabile che si produce, che è lo Stabile Marche, non per fare le cose comode, ma per provare a fare qualcosa di un po' più rischioso e coraggioso, pagandolo anche sulla nostra pelle, ovviamente. Certo. Allora Paolo, ripetiamo l'appuntamento: Strategie Fatali, compagnia Mazzarelli Musella, al Teatro India da domani 25 gennaio fino al 5 febbraio. Un abbraccio, con in bocca al Marco Poschi, Laura Graziosi, certo. Assis Casari, Giulia Salvarani e Annibale Pavone, che sono i nostri meravigliosi compagni di scena. Benissimo. Allora un abbraccio e ci si vede lì. Un abbraccio a voi, a presto, ciao. Grazie. Ciao.